592. Gialletti, prima maniera. Signore mamme, trastullate i vostri bambini con questi gialletti, ma avvertite di non assaggiarli se non volete sentirli piangere pel caso molto probabile che a loro ne tocchi la minor parte. Farina di gran turco, grammi 300. Detta di grano, grammi 100, zibibbo, grammi 100, zucchero, grammi 50, burro, grammi 30, lardo, grammi 30, lievito di birra, grammi 20, un pizzico di sale. Con la metà della farina di grano e col lievito di birra, intrisi con acqua tiepida, formate un panino e ponetelo a lievitare. Frattanto, impastate con acqua calda le due farine mescolate insieme con tutti gli ingredienti suddetti eccetto l'uva. Aggiungete al pastone il panino quando sarà lievitato, lavoratelo alquanto e per ultimo uniteci l'uva. Dividetelo in 15 o 16 parti, formandone tanti panini in forma di spola, e con la costola di un coltello incidete sulla superficie d'ognuno un graticolato a mandorla, poneteli a lievitare in luogo tiepido, poi cuoceteli al forno o al forno da campagna a moderato calore onde restino teneri.